Siete voi, bella Rosina, siete voi, bella Rosina, oh, e voce, sopraffina, fate volte sopraffina, mala prada, par con me, di mala prada, par con me. Oh,